24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Sul nuovo Senato targato Renzi si accende la polemica tutta intorno all'immunità. Nel testo di riforma all'esame di Palazzo Madama è prima sparita, poi ricomparsa anche per i 100 che dovrebbero comporre il nuovo Senato. Questa polemica che si sviluppa anche all'interno del PD. Forza Italia rigetta ogni paternità dell'emendamento. Il ripristino dell'immunità non l'avevamo chiesta noi. Gioco forza per i 5 Stelle scagliarsi contro quella che definiscono immunità da brivido. Questione dell'immunità a noi non appartiene. Per noi l'immunità deve scomparire. Roberto Calderoli propone ora di eliminare l'immunità tanto al Senato quanto alla Camera. Il ministro Boschi assicura che il tema non è centrale e che se ne può discutere. Non possiamo concentrare tutto il dibattito su una riforma di portata storica, perché bisogna dirlo che il Paese aspetta da 30 anni soltanto la discussione sull'immunità. Michele Ainis, immunità per tutti o per nessuno. Sarebbe buffo una Camera protetta e una Camera disarmata, cioè che cosa c'è, un camerone e un camerino? Le immunità vennero brevettate proprio dai più intransigenti profeti del principio di uguaglianza, che erano i giacobini. Io credo che, senza esagerare, un minimo di protezione va mantenuta. Sì. Onorevole Simona Bonafè, buongiorno. Ha sentito a Inizio al TG3, l'immunità è una garanzia per la separazione dei poteri. Lei è d'accordo? Ma in effetti, come principio generale, quando è nata la Costituzione, dopo il periodo autoritario, l'immunità aveva un senso, che era quello di garantire al politico la libertà di espressione, più in generale e libertà personale da pressioni o repressioni eventuali. Ecco, oggi però sembra solo un privilegio, perché è stato usato male. Ah, non c'è dubbio che in tempi di grandi inchieste di corruzione e malaffare che chiamano in causa anche la politica, il rischio che l'immunità sia vista come un privilegio e non come una garanzia c'è tutto. Io, guardi, farò sicuramente arrabbiare i costituzionalisti, ma credo che il nostro compito adesso sia proprio quello di ricucire il distacco che separa i cittadini dalle istituzioni. Mi faccia brutalizzare. Se la nuova politica sarà anche una buona politica, quindi sarà all'altezza delle sfide del Paese, io penso che l'immunità ce la riconquisteremo sul campo. Adesso comunque l'immunità al Senato è diventato un emendamento senza padri, anche se firmato da tutti, 5 Stelle compresi. Siamo ancora alla fase in cui la politica non ha il coraggio delle sue scelte, non se l'è ancora riconquistato, insomma. No, guardi, a me pare che emendamenti a favore dell'unità siano arrivati da tutte le forze politiche, compresi Stelle, che oggi gridano allo scandalo. Senta, ma il governo ha fatto anche lui un po' un pasticcio? Ma un po' di confusione forse sì, ma ripeto, mi pare che a favore dell'immunità gli emendamenti siano arrivati da tutti. Senta, la Boschi però dice che nella bozza di governo non c'era e che in ogni caso si va avanti, quindi diciamo un ostacolo che in qualche modo si supera. Ma guardi, la fine del bicameralismo perfetto è ad un passo dall'essere realizzata. Ecco, a me interessa discutere di questo e in generale delle riforme che, come ha detto il Premier, devono andare avanti. Il resto direi che è pura teoria. Senta, Bonafè, intanto in Europa, lei mi sembra che sta a Bruxelles, la Merkel sembra avere cambiato verso. È così? Si respira quest'aria lì? Decisamente sì, l'apertura della Merkel all'utilizzo dei margini di flessibilità già previsti dal patto di stabilità, che è sempre poi stato interpretato in termini restrittivi, rappresenta indubbiamente una svolta nella politica economica europea. E quindi vuol dire che Renzi è più ascoltato in Europa? Oggi sentiremo la Camera? Ma Renzi è l'unico leader europeo intanto di un partito di governo che ha vinto, aumentando sensibilmente il consenso alle ultime elezioni e con un programma preciso, che era il superamento dell'austerity, perché dalla crisi non si può uscire se non si fanno investimenti e riforme. Senta, lei l'ha accennato, si torna alla lettera degli accordi di Maastricht che prevedono rigore ma anche sviluppo, e questo è il vostro obiettivo? Certo, noi siamo per rispettare le regole che ci siamo dati con il patto di stabilità, ma anche per prevedere politiche di crescita e di lotta alla disoccupazione attraverso lo scorporo degli investimenti dal calcolo del deficit, oppure, come abbiamo chiesto, incoraggiando le riforme strutturali come motore di sviluppo di ogni paese europeo. Senta, e quindi il ritorno allo spirito vero di Maastricht, in qualche modo? Beh, direi di sì, certo, stabilità ma anche crescita. Senta, Alessandra Mussolini ieri nella trasmissione della Saluzzi su Sky ha detto che il PPE in Europa non la vuole nel suo gruppo per via del suo cognome. Lei ne ha sentito parlare a Bruxelles di questo problema? Guardi, non ne ho sentito parlare, però insomma Alessandra Mussolini è vicepresidente del Senato della Repubblica ed è stata eletta con il voto di migliaia di cittadini, quindi io credo che abbia tutto il diritto di rappresentare il suo paese nel Parlamento europeo. Per quanto possa essere distante dalle mie posizioni, certo, politiche, Questo è un principio che vale molto di più del triste e strumentale tentativo di far ricadere le colpe su, dei figli sui padri. Anzi, sui nipoti. Esatto, sui nipoti. Senta, quindi se fosse vero, questa violazione della sovranità popolare merita una reazione, reagirete anche voi? Beh, noi abbiamo chiesto un'Europa più democratica e se vogliamo costruire un'Europa più democratica non possiamo fare l'errore appunto di lasciare fuori una rappresentante che è stata eletta col voto di migliaia di cittadini. Mario, Pietrangio, una domanda? Pietrangio Buttafuoco, una domanda? Buongiorno, una domanda è questa. La discussione che è stata aperta sul titolo quinto, la discussione che è stata aperta proprio sulla riforma e la discussione che poi volge a dare chiarezza, non sarebbe il caso adesso, invece di perdere tempo con le province, a cominciare ad abolire le regioni, così come Ainis ha già spiegato due giorni fa in un editoriale perfetto sul Corriere della Sera? Ma guardi, intanto parto da un dato di fatto, che stiamo rimettendo mano alla riforma del titolo quinto della Costituzione e soprattutto che stiamo mettendo in campo un piano di riforme anche istituzionali che non ha uguali nella storia e che dopo anni di immobilismo deve essere visto necessariamente come un bene. Tutti i miglioramenti sono assolutamente auspicabili, io penso però che la base di partenza sia una base importante, ecco, da portare avanti. Ancora una domanda di Mario Secchi. Buongiorno, buona fe. Allora, buongiorno. A questo punto, se l'immunità non è necessaria come si pensa, mi chiedo, ma farete una proposta per levarla anche alla Camera? Oh no. Guardi, l'ha detto molto bene il Presidente del Consiglio. Noi pensiamo che le riforme debbano andare avanti e che questo, per carità, sia una discussione importante, ma non diciamo la questione. Per cui noi siamo impegnati a portare avanti il processo di riforme e speriamo che questa non sia invece l'occasione di cogliere un elemento che è quello dell'immunità per bloccare tutto. Sarebbe un peccato. Grazie, onorevole Bonafè, buon lavoro. Secondo un'analisi realizzata dalla FAO, lo spreco mondiale di cibo è di 1,3 miliardi di tonnellate all'anno, che equivale a un terzo del cibo prodotto in tutto il mondo per consumo umano sempre in un anno. Per fare un esempio, nell'Africa subsahariana si producono 230 tonnellate di cibo, mentre nei paesi industrializzati si buttano nella spazzatura 222 tonnellate di alimenti. I più spreconi sono gli americani e subito dopo noi europei, che buttiamo dai 95 ai 115 kg di cibo a testa ogni anno. Ma nella spazzatura non finiscono solo gli alimenti, anche i nostri soldi. Infatti, in Italia una famiglia butta via ogni mese circa 30 euro, quasi la metà dei famosi 80 euro in più in busta paga voluti da Renzi. Il settore agricolo butta oltre 704 milioni di euro e invece la catena della distribuzione spreca 1,5 miliardi di euro. Professor Andrea Segre, buongiorno, coordinatore del piano contro lo spreco alimentare. Lei ha fatto e fa una battaglia su questo tema ed è il coordinatore appunto del piano. Lei dice che c'è un circolo velenoso tra il frigorifero e la pattumiera, cioè? Cioè, in effetti, il dato che emerge sullo spreco domestico in particolare, cioè ciò che si getta via ancora buono e finisce direttamente nel bidone della spazzatura, questi 8 miliardi e 7 che abbiamo calcolato col nostro osservatorio Waste Watcher, circa mezzo punto di PIL, sono beni che potrebbero essere consumati e che per nostra, direi, insipienza finiscono nel bidone della spazzatura e quindi diventano rifiuto, sul quale peraltro paghiamo qualche tassa, qualche tariffa, oltre a produrre degli inquinamenti, senza tener conto che per produrre quel cibo abbiamo usato delle risorse naturali, la terra, l'acqua, l'energia. Quindi è un po' assurdo. Tutto questo. Ecco, professor Segre, ma da dove inizia lo spreco nella filiera dell'agroalimentare? Ma se lo vediamo a livello mondiale, visto che avete citato giustamente i dati della FAO, capiamo che non è un problema dell'Italia o dell'Europa, ma di tutto il mondo. Si colloca nei paesi in via di sviluppo all'inizio della filiera, cioè parliamo proprio di produzione, di prima trasformazione e di trasporto. Si chiamano forse più, in modo più appropriato, perdite. È una questione di organizzazione e di tecnologia. Se poi arriviamo invece nelle economie cosiddette sviluppate o ricche o ex ricche, vista la crisi, siamo più a valle, davvero a casa nostra, e quindi qui è più appropriato parlare di spreco, una questione di stili di vita, di modelli di consumo. E quelle sono le cause principali, gli stili di vita, dello spreco? Nel caso dell'economia sviluppata direi proprio di sì, perché abbiamo perso il valore del cibo. Perché lo gettiamo via? Mi sono sempre domandato. Quando è ancora buono, quando la scadenza si avvicina, quando esteticamente la confezione presenta qualche danno. Ma ecco, professor Segre, ci dà qualche consiglio semplice per evitare di buttare cibo ancora buono? Ma sembra, dovrei tornare un po' all'economia domestica che insegnavano alle nostre mamme, nonne, dipende da quanti anni abbiamo. Cioè la spesa poi va fatta in modo sapiente, compriamo quello che ci sembra serve, a prescindere da dove andiamo ad acquistare, facendo la lista, magari non andando a stomaco vuoto perché siamo diciamo un po' più propensi agli acquisti. E poi il frigorifero, effettivamente l'avete citato, è uno strumento che serve più che a stipare i prodotti che abbiamo acquistato in eccesso, a conservarli bene. Ecco, però professore, è un problema che hanno poi in realtà tutti, è quello delle date di scadenza. Come bisogna comportarsi rispetto, perché uno può sbagliarsi nell'acquisto, ma poi si spaventa rispetto alla data di scadenza. È una paura da avere o no? Beh sì, tanto la sicurezza alimentare non è un diciamo gioco, va rispettata, ci sono delle normative, solo che siamo andati diciamo un po' oltre, perché nell'etichetta, l'etichetta è la carta d'identità di un prodotto, ci sono tante informazioni, alcune inutili, una importantissima è in effetti la scadenza. Ci sono due tipi di scadenza, una secca, chiamiamola così, da consumarsi entro, ed è un prodotto fresco, lì non bisogna andare oltre. Sappiamo però che c'è una tolleranza legale, se andiamo al giorno dopo facciamo semplicemente una verifica, certo, perché magari il prodotto è ancora consumabile. Senta, professor... E la seconda prego. La seconda è da consumarsi entro, e invece un prodotto secco, nel caso non so della pasta, dei biscotti, lì in realtà è un termine minimo di conservazione scelto prevalentemente dal produttore, si può andare oltre perché non c'è nessun pericolo. C'è nessun problema. Ecco, 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Voi vi siete dati, professor Segre, un obiettivo per il 2025, cioè di dimezzare lo spreco alimentare, ma con quali armi? Intanto dal punto di vista normativo c'è già molto, 2025 per avere una scadenza temporale, forse la prima azione da fare, quella che del resto emerge proprio dal Piano Nazionale di Prevenzione degli Sprechi Alimentari, è riprendere l'educazione alimentare, questo valore del cibo multiplo, nutrizionale, ambientale, economico, eccetera, l'abbiamo perso. Quindi educazione alimentare nelle scuole. Sì, soprattutto le giovani generazioni. Nel nostro osservatorio abbiamo visto che i giovani 18-30 e quelli che stanno in famiglia sotto i 18, per la verità ci stanno anche gli altri, il problema se lo pongono poco o non se lo pongono affatto. Ecco, rimettiamo nelle scuole queste due materie, direi non solo l'educazione alimentare ma anche quella ambientali, sarebbero diciamo due capitoli importanti della nostra educazione civica. Ecco, un altro punto è la campagna di comunicazione di cui si sta occupando, vi state occupando voi, per sensibilizzare le persone su questo. Ma la campagna è fatta come? Beh, intanto è stato interessante, abbiamo fatto un concorso assieme a Socially Correct, lo presenteremo i risultati di giovani che hanno partecipato il 12 luglio a Spoleto, il Festival dei Due Mondi. Non anticipo perché stiamo ancora esaminando i lavori, ma è una campagna, diciamo, mentre a scuola si agisce nel tempo futuro, questa è immediata, sarà di grande impatto e ci farà capire che lo spreco è davvero un danno per la nostra salute e per quella del mondo. Ecco, professor Segre, lei ha lavorato molto per coinvolgere nella lotta allo spreco gli enti locali. Resti con noi e senta cosa ci ha detto Stefano Mazzetti, che è il sindaco di Sasso Marconi, coordinatore di sprecozero.net. Stefano Mazzetti, lei è sindaco di Sasso Marconi in provincia di Bologna, anche coordinatore di sprecozero.net. Cos'è in due parole sprecozero.net? Sprecozero.net è un'associazione di enti territoriali dove sostanzialmente ci mettiamo in rete fra di noi, enti territoriali, per collaborare insieme sulle politiche contro lo spreco, partendo ovviamente dalle politiche contro lo spreco alimentare, ma non solo contro lo spreco, col desiderio di conoscerci, di scambiarci, ecco, le buone pratiche e di fare cultura su questo tema. Ecco, quanti comuni hanno aderito finora? Noi siamo partiti sostanzialmente 2 mesi fa, ma hanno già aderito 20 comuni, ma abbiamo un potenziale molto ampio, che sono tutti quelli che hanno aderito precedentemente alla Carta Europea contro lo spreco, che sono 800.000, quindi, quindi direi c'è spazio per crescere. C'è grande spazio e abbiamo già parecchie richieste. Ecco, insomma, senta, prima di aderire a questa rete, comunque il suo comune, il Sasso Marconi, ha avviato tanti progetti contro lo spreco. Dottor Mazzetti, me ne dice qualcuno? Intanto il primo, che riguarda lo spreco alimentare, che è Brutti ma Buoni, questo sistema che prevede il recupero alimentare nelle grandi distribuzioni del materiale in prossimità di scadenza e che è visivamente non attrattivo sul banco, per poi recuperarlo e fare pasti per l'assistenza domiciliare ai nostri assistiti, con ovviamente riduzione dei costi e contemporaneamente recupero alimentare. Sindaco Mazzetti, dal ministro Galletti, che avremo al telefono dopo, lei che cosa vorrebbe sapere con certezza? Cosa gli chiederebbe? Al ministro Galletti gli chiederei una cosa molto semplice, che è quella di poter insieme al Ministero dell'Ambiente avviare insieme un rapporto collaborativo e continuativo per le politiche contro lo spreco, perché diventino effettivamente un progetto che da Roma scende ai sindaci, che permette a tutti noi di fare una nuova cultura. Fare una convenzione insieme, ma in concreto, cosa si aspetta? Lavoriamo per fare in modo che chi comuni fa queste politiche abbia degli incentivi a farle, non lo debba fare come elemento di straordinario, ma diventi un elemento di normalità. Penso che questo sarebbe il grande salto di qualità, incentivi per chi fa politiche di questo genere. Ecco, professor Segre, ci scrivono i nostri ascoltatori: entro e preferibilmente, date informazioni complete, è un argomento che tocca la salute e non si scherza. Ecco, possiamo ripetere bene rispetto alle date di scadenza: entro e preferibilmente. Preferibilmente entro, una dicitura che va sui prodotti secchi, biscotti, pasta, caffè. Dopo la data indicata, il cibo potrebbe perdere alcune sue caratteristiche distintive, però può essere consumato, non è un pericolo per la salute. Da consumarsi entro, invece, il latte fresco, lo yogurt, è quella la data ultima. Io però aggiungo, usiamo il buon senso, apriamo le confezioni, verifichiamo se il prodotto è ancora consumabile, perché altrimenti gettarlo nella spazzatura significa sprecarlo. Ecco, professor Segre, Sonia ci scrive: per limitare gli sprechi sarebbe utile che i supermercati facessero uno sconto sul singolo prodotto, non il 3x2. Che in realtà fa acquistare più di quanto non si abbia bisogno. È una proposta da sposare oppure no? Assolutamente sì, noi l'abbiamo fatto, per dire la verità, già una decina d'anni fa, ma non eravamo in crisi e nessuno ci ha ascoltato. Adesso, grazie fra virgolette alla crisi, molte catene di supermercati fanno già questi sconti, 30-50%. Nel piano nazionale però abbiamo proposto che vengano regolamentati bene, in modo che non sia lo sconto selvaggio che magari dietro nasconde qualcos'altro. Ecco, Francesco ci scrive: da Milano le nostre nonne e i nostri nonni avevano il tempo di fare la spesa ogni giorno. Oggi una delle ragioni dello spreco è che facciamo la spesa una volta alla settimana. È vero, ma non è che adesso, se uno lavora ed è importante, la fa una volta alla settimana, basta che la faccia con attenzione, con la stessa attenzione, e si riuscisse a fare una volta al giorno sarebbe meglio, non tutti possono farlo. Ecco, professor Segre, un'ultima cosa: quali incentivi potrebbero essere efficaci? Ma in realtà io, diciamo, gli incentivi ci sono, per esempio, nella devoluzione dei prodotti, fare uno sconto alle catene dei supermercati sulla tassa o tariffa dei rifiuti, in modo che questo diciamo possa aiutarli a recuperare. Di fatto la normativa c'è già, è una questione culturale, la parola d'ordine non è tanto recupero che è fondamentale, facciamolo finché ce n'è, finché ce n'è c'è qualcuno che può consumare questi prodotti, ma è prevenzione, cioè gli sprechi non ci devono essere. Grazie professor Segre. Gianluca Galletti, che è il ministro dell'Ambiente. Fino a qui abbiamo parlato di tante forme di intervento sullo spreco alimentare in un periodo di crisi. Ecco, ma combattere lo spreco alimentare è un impegno primario per il governo? È un impegno primario, perché l'impegno sull'ambiente, il futuro delle nuove generazioni e soprattutto il futuro anche di questo paese, oltre che del pianeta, non può venire dopo a nulla. Quando noi parliamo di spreco alimentare, nella mentalità comune parliamo solo del bilancio familiare da una parte, oppure del fatto morale che consumiamo cibo quando in altre parti del mondo, cioè sprechiamo cibo quando in altre parti sì. del mondo invece muoiono di fame. Ma non è solo non questo, è solo il quello, problema. Infatti. Il problema è che noi ogni volta che sprechiamo del cibo buttiamo via un pezzettino di ambiente. Ecco. Quando buttiamo via un pezzo di pane, buttiamo via un po' di acqua, un po' di consumo del suolo, un po' di energia. Ministro. E questo non ce lo possiamo più permettere. Ecco. Ministro. Non ce lo possiamo più permettere assolutamente. Ministro Galletti, insieme al professor Segre, voi sostenete che abbiamo sentito che si debba introdurre l'educazione alimentare e ambientale come materia delle scuole. È una proposta concreta o sono parole? Questa è una delle missioni principali del mio mandato come ministro dell'ambiente. Se noi vogliamo sviluppare una cultura ambientale in questo paese, dobbiamo partire dai giovani. Guardi, io vedevo mia figlia piccola usa il computer meglio di come lo uso io. Certo. Usa l'iPad molto meglio, è una nativa digitale. Io ho coniato questo termine, nativi ambientali, e lo faremo, il primo segnale concreto, quello che lei mi chiede, lo faremo facendo una unità all'interno del Ministero che si occupa solo di questo. Ecco, ma andrà di pari passi, andrà di pari passo con l'edilizia scolastica, che è un'altra priorità del governo? Assolutamente sì, l'edilizia scolastica è... Noi abbiamo due priorità, l'edilizia scolastica e il dissesto idrogeologico. Queste vanno avanti, guardi, non c'è dubbio che se vogliamo fare cultura ambientale dobbiamo anche avere le scuole, i posti dove farle, appunto. Senta, il sindaco, non andiamo mica tanto in là. Appunto, il sindaco di Sasso Marconi prima le ha chiesto con chiarezza di arrivare a una convenzione che snellisca le procedure. Si può fare? Si può fare come? Stiamo già parlando con lui, so che l'ANCI, una serie di comuni facenti capo all'ANCI, stanno lavorando su questo e dal mio ministero c'è il massimo interesse in questo senso. Ecco, ma voi riuscirete a trasformare in legge il piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare? Questa è una sfida che abbiamo davanti, ce la metteremo tutta. Ecco. Io penso che su questo tema ci sia oggi molta sensibilità, certo. Non solo a livello italiano ma anche a livello europeo. Ecco, ma a livello europeo nel semestre, durante il semestre, appunto, nel semestre se ne parlerà. Europeo questo sarà uno dei temi trattati dalla presidenza italiana, ma le dico di più, questo tema va anche oltre l'Europa, è diventato un problema di tutto il mondo. C'è una lei diceva di Nairobi? Io andrò a Nairobi nei prossimi giorni a un incontro dove partecipano più di 150 paesi e uno dei temi rappresentati dai ministri dell'ambiente e uno dei temi che tratteremo è anche quello dello spreco alimentare. Senta, per dire l'importanza che oggi riveste questo tema. Certo, in tutto il mondo. Senta, ministro, questo il vostro è un governo che fissa sempre le date. Sapete sempre quando farete le cose. Mi dà una data per questa legge? La data per la legge non gliela posso dare io perché la può dare il Parlamento solo, io non gestisco i tempi del Parlamento. A lei è il primo ministro che non dà date. No, una data gliela do. Io penso che noi dobbiamo partire col nuovo anno scolastico avendo già delle linee guida che contengono anche la cultura ambientale. Questa è la sfida, al di là delle leggi, questa è la sfida che abbiamo, cioè dal prossimo anno. Il ministro dell'educazione lo sa? Stiamo discutendo insieme su questo, ci stiamo lavorando sopra da tempo, non è una cosa che si fa in 2-2-4 perché certo. Vuol dire andare intorno non ai curricula che quelli sono stabiliti, ma vuol dire fare un protocollo. Però di lei mi ha detto, lei mi ha detto, se ho capito bene, per darmi una data, questo prossimo anno scolastico si introdurrà l'educazione alimentare. Delle linee guida che conterranno anche l'educazione ambientale naturalmente. Giovanni da Bassano, intanto buongiorno e auguri perché oggi è il suo onomastico. Grazie, grazie Minoli, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io volevo portare la mia esperienza di ex obiettore di coscienza. Facevo il servizio civile in un'associazione qui nella mia città e la mia mansione era quella di girare tutti i supermercati, i mercati generali, andare a chiedere ai vari commercianti, ai vari esercenti il cibo che non era più vendibile perché si era rotto il sacchetto, perché c'era la frutta che era un po' ammaccata, e lo si portava alle mense. Questo diciamo, però che... è una cosa che si continua a fare. È una cosa che si continua a fare, però tutte le amministrazioni, secondo me, dovrebbero orientarsi, certo, in questa. Intanto perché hanno un risparmio per quanto riguarda l'acquisto dei beni alimentari, e secondo perché anche si fa, diciamo, un'opera, certo, di bene. Grazie, grazie. Giovanni, tu Mario come risparmi? Beh, cerco di fare la spesa fresca. Ah sì? Sì. Ah, giorno per giorno. Sì. E tu, Pietrangelo? Spesa ogni giorno, e poi un accorgimento, che è un vecchio trucco che veniva svelato dai nonni. È sufficiente benedire il cibo e non si butterà mai. Ah. Ancora trascendente. Hai visto? Vabbè, è sempre un'interpretazione particolare, così. Interessante. Io vivo in Svizzera e sia Migros che le Coop mettono i prodotti a metà prezzo quando arrivano vicino alla scadenza. Insomma, le soluzioni possono essere tante, ti dalle benedizioni alle risoluzioni. Cioè, Giovanni, volevo dire una cosa. Cioè, esiste la fame nel mondo ed è una vergogna che esista, perché certo, noi produciamo e consumiamo in eccesso. Ci ha detto Sara che sono uguali praticamente a quello che buttiamo. Allora, le tonnellate che buttiamo tutti nel noi mondo ogni, occidentale. Ogni da volta, quelle che... Tutti noi ogni volta che facciamo la spesa, ogni volta che consumiamo, dobbiamo ricordarci che quando butti una cosa del genere, tu stai buttando una cosa che può essere essenziale per la vita di un bambino, di una famiglia. Mi colpisce moltissimo questa cosa. E a questo... Ho un attimo di, come dire... Di riflessione. In realtà chi ha una certa età, come me per esempio, è stato educato in questo modo. Sì. Quindi... Oggi è San Giovanni. Sì, San Giovanni. Tanti auguri. Pubblicità, grazie. Mix 24. Oggi Persefone si aggirava tra i meandri della metropolitana. Di che colore? Perché di solito lei corre attraverso i campi pieni di fiori, attraverso i campi già tagliati. Invece oggi ho preferito la metropolitana perché ho scoperto che aveva una tresca felice con Efesto. E quindi Efesto convocò tutti i suoi schiavi affinché ci fosse più musica. E convocò Handel in persona, che dal Serse, ombra mai fu, restituì una luce, fatta solo di sguardi, alla sua Persefone. Era bionda o bruna? Non mi rispondi. Ma non fare il blasfemo, perché prima o poi sveleremo. Cosa? Tutto quello che dentro di te mi alzo in piedi qua. Tutto quello che dentro che di te ma tenerezza. Non c'è niente dentro di te. Dolcezza, tenerezza, amore, passione. Io sono cinico e cattivo. Ma che tu sei più buono del Dalai Lama. No, ti prego. Se le nostre bolle. Un pandorino sei. Un pandorino. Sì, il pandorino. Eccolo qua. Allora, vabbè, non è un Pandoro, non è Verona, non è Romeo, non è un balcone, non è Giulietta, non è Shakespeare, ma è il coro dell'Armata Rossa per introdurre lui. Scusami, Vladimir però Putin. Vorrei dire che l'Armata Rossa, o Armata Rossa, che dir si voglia, sintetizza tutto, da Shakespeare fino ad arrivare... Non ci sono dubbi. Fino ad arrivare a Dino Campana. Quindi grande letteratura. Gogol. Allora, volevo segnalare stamattina che Putin continua ad essere isolato, anzi, isolatissimo. È tanto isolato che la Russia ha appena firmato 20 trattati di cooperazione con l'Austria, ieri, nonostante tutti gli sforzi degli Stati Uniti, la geopolitica, caro Giovanni, comanda. Caro Pietrangelo, cari ascoltatori, la geopolitica comanda ancora. Non c'è ancora, mi dispiace, l'oleodotto che da Washington arriva in Europa. Putin invece ha oleodotti, gasdotti e così via. E oggi sarà a Vienna. È talmente isolato che arriverà lì, nella capitale austriaca, a dimostrare che cosa? Che la storia comanda ancora. Per fortuna, per fortuna. Tavolo ribaltabile, tac. Sedia rotante, tac. Posto per commensali che non ci sono, tac. Tovaglia metro, tac, tac. Piatto fabriano, tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica. Questa sì che è vita. Tac. Il grande pozzetto qua. Allora, vabbè, stava in un appartamento, eccetera. E perché abbiamo messo questo pozzettino dannata? Perché c'è la tecnologia in casa che farà grandi cose o piccole, dipende dalle vostre esigenze. Comunque, Google entra a casa tua. L'avevamo annunciato tempo fa, ti ricordi, certo. Giovanni, l'acquisto di Nest. È molto importante, è un'azienda che produce termostati, allarmi. Tutte in casa hanno queste cose, ci sono, poi se ne dimenticano, invece sono molto utili. Diciamo che non sono oggetto di culto, non hanno un gran bel design, spesso e volentieri, eccetera. Però Nest li ha trasformati prima in una cosa bella da vedere e Google ora vi inietterà il suo software. Siamo controllati anche in casa. Ah, non ci sono dubbi, il risultato, controlli la casa con un'app sul telefonino, ma questo è perfino elementare, ci sarà molto di più. Google ha aperto il software agli sviluppatori, le applicazioni diventeranno quindi moltissime. Con l'integrazione con Google Now, Nest scalderà la casa subito al tuo arrivo. Un'app sviluppata con la Mercedes avvertirà il tuo dispositivo in casa che sei arrivato, ti accenderà le luci di casa, metterà il riscaldamento, la temperatura giusta, magari ti accendi anche i fornelli e butta fuoco. E se uno è impantanato di stomaco, che fa? Questo è il dilemma. Ancora non si sa. Dipenderà dalle app. Comunque, è il grande fratello, dai! Quota rosa! A proposito di tecnologia, sembra quasi che ci siamo messi d'accordo, sembra, Mario. Sembra. In televisione c'è una nuova pubblicità che parla di un gadget nuovo, di una marca tecnologica molto famosa da abbinare a un telefonino. Lo attacchi su questo telefonino quando fai sport e quell'aggeggio minuscolo ti fa da allenatore. Diciamo che una volta c'era Jane Fonda che ti spiegava gli esercizi di aerobica, adesso vabbè c'è un aggeggio di plastica. Sempre in questa pubblicità ve la descrivo, c'è un ragazzo che va in bicicletta e sta tutto il tempo a guardare il telefono perché segna i chilometri orari e francamente non so come non possa schiantarsi immediatamente. C'è una ragazza che corre in un parco, bellissima, però non fa altro che guardare quante calorie sta bruciando. Poi c'è uno che gioca a golf e non smette un attimo di cercare conferme nel suo telefonino. Cioè, che angoscia. Io ho paura che un giorno, e neanche troppo lontano, mi troverò a letto con il mio uomo che guarderà il suo telefonino per sapere come fare l'amore con me. Ragazzi, ci siamo, eh? No, calma. No. Oh, mon amour. Questa è la Jetem. Questa è la piena fase di Vanetto. Che anni era? quelli che li si chiamavano i clebbini, eravamo piccoli. Tardelli, ma stamattina forte, eh? Forte stamattina. Forte Giovanni, hai visto? Fortissima. Buttafuoco irriflessivo. Irriflessivo perché c'è il salamino. Salamini a litri di salamini. Allora lui che lui indugia lui. E aspetta, volano i mesi, volano le stagioni, i filari si piegano sotto il peso degli acini, i filari riposano dentro nebbie e canta Vincenzo Cardarelli, canta Vincenzo Cardarelli, facciamolo cantare! Ecco, è lui, sempre obliasti, aiacet e l'amonio, ogni prudenza in guerra, ogni preghiera, giorni lunghi come anni. Bene, era lui, l'avete riconosciuto? Sì. Ecco, chiamano dalla Mongolia per ordinare 1000 bottiglie di vino di D'Alema, vino prodotto da Massimo D'Alema. E quindi non può chiamare il Gengis Khan di Pontassieve? dice giustamente Stefano Di Michele, che è un notista raffinatissimo, vogliono insegnare il Vangelo agli apostoli, ed è questo il senso della sfrontatezza renziana. D'Alema comunque annusa l'aria e morde il baffo, e D'Alema, che lo pitta bene questo mondo, non può che avere una dedica, perché il destino dei grandi è sempre nell'ebbrezza, e lui, che pure si affidò un triestino, col triestino saprà cantarlo. Solo davanti a un fiasco di vin, quel fior di un can fa le feste, perché il un can de Trieste, perché il un can de Trieste. Giovanni, davanti a un fiasco a noi ci rinchiudono, lo sai, vero? Sicuro, pubblicità, scappiamo. Mix 24. Il canzoniere. Ecco, si spegne il lume. Nuovamente me forza a rianimarlo prima del tempo mio d'insonnia. Il sonno mio non è sogno, è continuo pensiero ostinato, eppure io vivo. Ho l'aspetto, la forma, il respiro degli uomini viventi, sapere e patire, sventura è la vita degli uomini sapienti, coloro che più sanno, più amaramente debbono conoscere il loro fato. 800 2400 24 numero verde, 349-238-6666 l'SMS per chi riesce a rispondere, la bolla. Vai. Signore e signori, se mi definisco un cercatore di petrolio, sarete d'accordo con me. Ho attraversato il nostro stato per venire qui a esplorare il territorio. Sono un padre di famiglia. Lui è mio figlio e mio socio, H.W. Plainview. Ho molti pozzi che producono migliaia di barili al giorno. Posso garantire di iniziare a trivellare e di predisporre il denaro a conferma della mia parola. Film straordinario, Il petroliere, bellissimo, per chi non l'ha visto lo consiglio caldamente, ma non ci occupiamo del petrolio americano, perché questa il set era in America. Noi ci occupiamo del petrolio iracheno, perché ISIS, caro Giovanni, certo, cari ascoltatori, caro Pietrangelo, ha conquistato, pare in maniera definitiva, la raffineria più importante dell'Iraq, Baiji. Che cosa succede a questo punto? Produce il 70% della benzina irachena. È una cosa strategica molto importante, perché ISIS la può usare come arma impropria di guerra, diciamo. La prima cosa è che potrebbe interrompere le forniture verso la capitale e le zone controllate pienamente dall'esercito regolare iracheno, quindi a sud, diciamo. La seconda è che ISIS, a quanto pare, potrà stringere, anzi vuole stringere, degli accordi con le tribù locali, affidando la loro la gestione degli impianti. Questo vuol dire che poi, no, prende consenso, certo, e così via. La domanda è sempre la stessa. Gli americani che fanno? Missing in non action. Il 23 giugno del 1980 veniva ucciso a Roma il sostituto procuratore del tribunale. Mario Amato venne ucciso dai NAR, un gruppo terroristico di estrema destra, proprio mentre indagava sugli attentati di matrice nera. Era un uomo solo, come lui stesso dichiara in un'audizione al CSM qualche mese prima di essere ucciso. Qui a Roma si cercano i famosi NAR, nuclei armati rivoluzionari, che hanno rivendicato parecchi omicidi e attentati e che ora sono divenuti ancora più virulenti. Recentemente sono state arrestate delle persone trovate in possesso di pistole e bombe a mano. Esaminando il fascicolo, rilevai, utilizzando i miei appunti personali, manca infatti qualsiasi tipo di schedario, che le bombe a mano trovate a dette persone avevano lo stesso numero di lotto di altre bombe a mano usate da altri, come quelle usate nell'attentato dei NAR alla sede del PC, in cui rimasero ferite 22 persone. È evidente che non può essere una coincidenza. Resta il fatto che tale elemento l'ho evidenziato io, in base a una serie di appunti che mi sono andato formando nel corso della mia attività, mentre nel rapporto della Digos non era indicato. Lavorare in tal modo è inconcepibile. Siamo in pratica alle soglie della guerra civile e ci troviamo ancora in queste condizioni. Questo era l'urlo di Mario Amato davanti al CSM, inascoltato. Marina Milone cura la puntata che andrà in onda dopo il giornale radio, la puntata realizzata da Valerio Serra, che si chiuderà con un'intervista a Pietro Corsini, giornalista, autore di Eroi come noi. Salamino. We'll be right back. Salamini di spazzatura, 40 tonnellate di rifiuti sono stati contati al Circo Massimo dopo il concerto dei Rolling Stones. E forse intendeva dire questo Ignazio Marino, il sindaco di Roma, quando ha incontrato Mick e ha detto: è carichissimo, carico di spazzatura da spargere tra le avite pietre del Circo Massimo. Allora, per il 2015, dice ancora, il giulivo, il fringuellante, il ciripiripi, il delicato, il biciclettante sindaco dice che per il 2015 gli piacerebbe portare qui i Coldplay. Allora, gli organizzatori dei Rolling Stone hanno pagato 7.934 euro e dicono loro è più del dovuto. Uno degli organizzatori, Sergio Giuliani, si lamenta e dice che sta pensando di chiedere indietro al comune i costi extra già pagati, cioè 176.000 euro. Quindi 176.000 euro meno 7.934, insomma la somma dovrebbe essere questa, è la somma che fa il totale, però io vorrei, non ve l'ho detto prima, lo faccio adesso sfacciatamente, lanciare un appello, una mobilitazione, non solo dei cittadini di Roma, ma di tutta Italia, affinché venga tolto Marino e al suo posto venga nominato sindaco l'unico, il grande, il meraviglioso Romeo! Meraviglioso Romeo! Meglio del Colosseo, io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò, oggi chi lo sa? C'è giù l'ambulanza, mi è arrivata, è arrivata sì. L'ambulanza. Giuseppe da Torino dice: quando parla Butofoco non capisco mai una mazza. Sono l'unico. Da dove chiama? Da Torino. Ah, pensavo avesse fatto il militare a Cuneo. Ieri i dirigenti della RAI hanno cominciato un processo di riprogettazione dell'azienda con una sorta di Leopolda, nella quale hanno invitato 100 autorevolissimi esponenti della cultura, del giornalismo, dell'arte, dello spettacolo a dire la loro. Fra questi c'erano anche, domani De Siervo sarà qui con noi, il presidente dei dirigenti, ci racconterà la nuova RAI. Ma intanto voi eravate lì. Mario, che impressione tu? Alla fine la chiacchierata è stata interessante, perché la RAI è capace di catalizzare l'attenzione, come si vuol dire, nel bene e nel male, no, si sa, è come la scuola nazionale, tutti hanno la loro opinione sulla RAI, tutti sanno come rifarla. Io personalmente ho messo l'accento con una provocazione sul fatto che la tecnologia ha cambiato totalmente il modo di guardarla, conto. È una realtà multiscreen, insomma, devo dire c'è stato un acceso dibattito. Bene, tu Pietrangelo? A me è sembrato come la pubblicità del Pic Indolor, quello della puntura, ve lo ricordate? Già fatto. Non è vero, ha citato Ezra Pound lui. Pubblicità.